ai suonatori un po' sballati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato, chissà mai perché. Ai dimenticati, ai playboy finiti, e anche per me. A chi si guarda nello specchio da tempo, non si vede più. A chi non ha uno specchio, e comunque non per questo non ce la fa più. A chi ha lavorato, a chi è stato troppo solo e va sempre più giù. Benvenuti a Dedicato, mercoledì 15 maggio. Bene, la settimana di Eufonica è finita, ma per noi comincia l'avventura e il percorso di farvi ascoltare tutto quello che è successo nel nostro laboratorio radio dedicato a Eufonica. Per l'appunto siamo stati con tutto lo staff di Dedicato, piccoli, grandi, medi, tutti quanti presenti nelle tre giornate di Eufonica 2024 organizzate da Bologna Fiere Group, quindi in fiera a Bologna. Siamo stati con il nostro stand, nonché studio, perché abbiamo avuto veramente uno spazio eccezionale, e ringraziamo infatti anche l'organizzazione di Eufonica che ci ha valorizzato e ha realizzato insieme a noi questa meravigliosa avventura. Abbiamo avuto, dicevo, questo spazio dove abbiamo potuto intervistare, ascoltare, abbiamo parlato con un sacco di persone, ma soprattutto con un sacco di musicisti giovani, giovanissimi e anche affermati più o meno, insomma. Quindi abbiamo parlato con i docenti, abbiamo parlato con gli organizzatori musicali, con chi insomma di musica non solo ci vive ma si nutre proprio. E quindi intanto ringraziamo tutti, perché veramente è stata un'occasione eccezionale per Dedicato e per tutti noi. E poi iniziamo a farvi ascoltare un po' quello che è successo a Eufonica quest'anno e in prospettiva anche dell'anno prossimo, perché Eufonica è in crescita e l'anno prossimo vi aspettiamo ancora più numerosi. Il nostro laboratorio radio quindi ha creato interviste, sketch, momenti buffi, abbiamo veramente di tutto da proporvi. Iniziamo piano piano ad ascoltare quello che è successo. Vi anticipiamo che in alcuni casi purtroppo l'audio non sarà dei migliori, ma perché ci sono state sovrapposizioni di interviste con esecuzioni musicali sul palco, quindi sentirete dei sottofondi sonori, sentirete purtroppo del vociferare e l'audio in alcuni casi nelle esecuzioni musicali non è veramente al massimo, perché abbiamo dovuto correre effettivamente per realizzare tutto il materiale interessantissimo che vi faremo ascoltare nelle prossime puntate di Dedicato. Quindi non pensiate che oggi in mezz'ora noi riusciremo a farvi ascoltare tutto quello che è successo quest'anno Eufonica, ma lo diluiremo nei prossimi mesi e nelle prossime puntate. Ciao ragazzi, buongiorno, siamo qui a Eufonica 2024, voi da dove venite? Veniamo da Grotta Azzolina, in provincia di Fermo. Siamo una scuola media che si chiama Mario Pupilli, che è la scuola dove da Grotta Azzolina, però ci abbiamo anche quelli di Monte Giorgio, quindi... In realtà veniamo dall'ISC Cestoni di Monte Giorgio. Quanti anni avete? 14. 13. Tra i 13 e i 14, ma anche gli 11 e i 12, dagli 11 ai 14. Quindi siete una scuola secondaria? Sì, una scuola secondaria, di primo grado. Ok. Cosa ne pensate della musica? È bella. Molto bella. A me mi è piaciuto molto iniziare a suonare gli strumenti alle scuole medie, e mi dispiace molto che quando dovrò andare alle superiori, visto che io faccio la terza media, la devo lasciare perché non ho scelto il musicale, che ha, il musicale è l'unico che continua con lo strumento, le altre scuole invece no. Questa cosa mi dispiace molto. È un percorso molto bello che non tutti hanno voluto sperimentare, ma secondo me ne vale la pena. Ti libera. Secondo me ti puoi sfogare tranquillamente con la musica, e purtroppo l'anno prossimo dovremo lasciare tutto. Peccato. Potete continuare comunque, eh? La musica è in noi sempre. Ciao ragazzi, grazie. Ciao. Ciao. Thank you. Abbiamo ascoltato la scuola media di primo grado Rolandino di Bologna, dove i ragazzi hanno eseguito America, tratto da West Side Story di Leonard Bernstein. Piccolo estratto, perché ci sono veramente tantissime scuole, tantissimi ragazzi che suonano, e gli ospiti di Eufonica 2024 sono veramente molti, quindi cerchiamo di valorizzare tutti e mandiamo anche solo dei piccoli estratti di ogni esecuzione. Ciao ragazzi, siamo qui a Eufonica 2024, voi siete venuti per suonare da dove? Lucera. Provincia di Foggia. Lucera, provincia di Foggia. Wow, avete fatto un viaggio lunghissimo e quindi siete anche in gita, immagino. Sì. Sì. Che classe siete? Terza e seconda media. Ah, ok. E che cosa suonerete oggi? Allora, tre brani. Nuvola, Polar Express e The Final Countdown. Fantastico, bravissimi. Ciao ragazzi. Ciao. Quest'anno a Eufonica c'era un fantastico cartellone enorme in cui poter attaccare dei post-it con il proprio pensiero musicale su che cos'è la musica, che emozioni mi provoca, come vivo io la musica, insomma, personalmente. E i bambini e i ragazzi che hanno bazzicato in Eufonica hanno veramente riempito questo cartellone, che vi garantisco era molto grande, con i loro post-it, e oggi iniziamo a leggervi qualche perla di saggezza scritta dai bimbi e i ragazzi. La prima dice: la musica è un linguaggio universale per esprimersi, che tutti capiscono in un battito di ciglia. Per me è l'ispirazione ed è un modo dove prendi spunto e cerchi di ricrearlo a modo tuo. Sì, è una frase un po' arzigogolata, però il pensiero è chiaro. Poi aggiunge: la musica regala emozioni che la scuola non dà. Non capisco chi non faccia strumento come vive. Bene, grazie. Ovviamente non c'è né nome né niente, perché erano post-it anonimi, ma a noi non interessa chi li ha scritti, ma che cosa ha scritto. Grazie ragazzi. Continueremo durante la puntata e anche nelle puntate successive a raccontarvi questi fantastici pensieri. Man at Work, Who Can Be Now. Bene, ora ci ricolleghiamo direttamente con quello che è successo a Eufonica 2024 e andiamo ad ascoltare un'intervista e un brano veramente molto molto interessanti. Allora, siamo qui a Eufonica 2024 col maestro Daniele Fazziani, che ha un progetto bellissimo sul sassofono. Adesso chiediamo direttamente a lui. Il progetto si chiama Saxbo Orchestra e nasce all'interno del Conservatorio di Musica GB Martini di Bologna. Quindi Daniele, ciao, grazie di essere con noi. Ah, grazie a voi per questa intervista. A me fa molto piacere parlare della Saxbo Orchestra, è una realtà che è nata all'interno della mia classe circa nel 2012-2013. Il primo progetto era il Saxbo Quartet e poi si è trasformato, avendo parecchi allievi, nella mia idea, insomma, di avere un'orchestra di sassofoni, non un ensemble tipico del 12-meno, cioè sopranino, soprano, eccetera, ma proprio un misto di sassofoni dove poter fare un'esperienza sia personale a livello di arrangiamenti, di composizioni, ma anche per i ragazzi, perché il nostro strumento si sa che è uno strumento molto popolare, molto, molto bello e molto richiesto, ma a livello di orchestra ha un repertorio abbastanza limitato. Quindi dare l'opportunità ai ragazzi, per esempio, di leggere brani che puoi passare da Bizet, anche Bach o Rossini, che non è un discorso bandistico, con tutto il rispetto, io ho diretto 35 anni una banda, quindi so cosa significa, ma è un discorso più cameristico e nello stesso tempo è un discorso che coglie nelle parti musicali quegli aspetti che sono dedicati prettamente all'orchestra sinfonica. Quindi ecco, lo scopo della Saxbo è proprio quello di far fare un'esperienza a 360 gradi su quello che può essere la bellezza della musica per orchestra. Un brano che eseguiremo proprio per il compleanno è proprio I quadri di un'esposizione di Mussorgsky, alcune parti che sono veramente musiche da un punto di vista compositivo strepitose, ma anche molto belle da realizzare con un ensemble di sassofoni. Nel contempo mi divertirò sempre un po' con la batteria, perché nasco come batterista anche. Ecco, bene, grazie Daniele, grazie davvero di essere stati con noi e buon proseguimento di questo meraviglioso progetto. Ciao! Grazie a voi, ti saluto e un caro saluto a tutti. Come detto prima, l'audio non è dei migliori, ma abbiamo ascoltato invece un brano interessantissimo riarrangiato per l'orchestra di sassofoni, che è la Saxbo Orchestra del Conservatorio GB Martini di Bologna, diretta dal maestro Daniele Fazziani. Grazie ragazzi! Siamo qui con Barbara Laurini, che è la mente creativa nonché organizzativa di Eufonica, perché nasce con lei e per lei questa fantastica fiera e questi momenti che noi abbiamo già da 2 anni sulla città di Bologna. Quindi adesso Barbara, ciao intanto, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi di avermi invitato, sono veramente contenta di essere qui a Dedicato. e ti chiediamo ovviamente come nasce Eufonica, da che pulpito, da che pensiero è nata questa idea e poi come si è sviluppata in questi 2 anni. Ma guarda, io direi che noi siamo qui nella regione che ha tantissima attenzione alla didattica musicale, all'espressione musicale. Quindi ho detto, ma siamo qui in regione Emilia Romagna, siamo a Bologna, città dell'UNESCO per la musica. E, a mio avviso, non c'è in Europa un progetto dedicato appunto alla didattica musicale. Era necessario e quindi è partito l'anno scorso a Palazzo Renzo, è andato benissimo perché abbiamo avuto più di 7.000 presenze e con tantissimi artisti e scuole che si sono esibite sul palco. E quest'anno Bologna Fiere invece ha aperto le porte alla settimana della musica a scuola. E quindi in una settimana intera si sono esibiti più di 80 ensemble orchestrali, dai più piccoli agli adulti, e abbiamo dato spazio anche alle academy come l'Hub Academy che c'è qui a Bologna fuori Roveri, e ai professionisti e ai bambini. Direi che la musica come linguaggio di unione, comunione sociale, è un momento anche storico in cui c'è bisogno di ricostruirsi, di rivedersi, di fare musica d'insieme. Nel grande palco che abbiamo allestito, grazie anche al supporto della Regione Emilia-Romagna, con la quale abbiamo collaborato appunto per l'organizzazione, si sono esibiti tutte le orchestre. Invece al primo piano del quartiere fieristico l'abbiamo dedicato invece alla ricerca sulla didattica musicale. Infatti abbiamo accolto masterclass, convegni di aggiornamento per i docenti, masterclass per i ragazzi, tra le quali per esempio anche grazie alla collaborazione con Agenda abbiamo avuto qua Ivano Zanotti che ha tenuto una splendida masterclass. Con Indire abbiamo ancora in corso un convegno internazionale con una call for paper per i docenti che stanno presentando proprio adesso delle buone pratiche didattiche e quindi sulla ricerca musicale. Quindi direi che il prossimo appuntamento a questo punto è al 2025. Eufonica 2025. Esatto, certo. Esatto. Bene, grazie Barbara sia per questa intervista, sia per la creatività e la passione che ci metti in questo progetto che io lo seguo da vicino assieme a te, quindi so di cosa parliamo, veramente grazie. Ma guarda, io ringrazio te perché in effetti la prima edizione Palazzo Renzo l'abbiamo costruita proprio insieme e devo dire che è dedicato a tutti i bambini e a tutte le famiglie che credono nel potere della musica, nel potere proprio di creare menti e cuori nuovi. Quindi grazie a te. Ciao. Ciao, al prossimo anno. Al 2025, sempre a maggio, vi aspettiamo numerosi. Ciao bimbi, siamo qui a Eufonica, volevo chiedervi, siete venuti qui per suonare voi, giusto? Sì. Che classe siete? Terza C, e terza B e terza A. Terza elementare? Sì. Ok, che cosa avete suonato di bello oggi? Caravana nel deserto, poi Andante, ciao Mozart, a galoppo. Vi siete divertiti? Sì, io parecchio. E da dove venite? Da Chieri. Piemonte, che bel viaggio, quindi fate anche una gita? Sì. Bene. Saltiamo l'interrogazione di geografia. Bene, facciamo un ciao Eufonica tutti insieme, pronti? Ciao! Ciao, grazie. That's turned away from it all like a blind man. Sat on the fence, but it don't work. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn. Altra perla di saggezza tratta dai post-it che i nostri bambini e ragazzi hanno lasciato sul cartellone che Eufonica aveva predisposto proprio per scrivere i loro pensieri, e dice: la musica è la prova che sbagliando si impara, perché magari si suona un sì al posto di un do. E questa è, insomma, una realtà effettivamente. Poi qualcuno ha scritto: i bambini dovrebbero crescere immersi nella musica sin dalla scuola dell'infanzia. E qui mi sa che c'è di mezzo un docente in questa, o un genitore, insomma, ecco, un adulto. Poi abbiamo un bambino che scrive: puntini puntini, dico bambino perché è una scrittura proprio da piccolo, e seguendo il proprio sogno, punto esclamativo. Grazie, questo è veramente molto bello vederlo, voi non lo vedete il post-it, però io che li ho visti vi garantisco che è scritto con il cuore. Siamo qui a Eufonica 2024 con Mirko Besutti, che è una delle menti dell'evento di quest'anno, menti e anche organizzazione, perché sono settimane, mesi che ci lavora dietro, io lo so bene in prima persona. Ciao Mirko, intanto grazie di essere con noi. Io credo che grazie vada dato ai ragazzi, perché questa Eufonica è stata incentrata sulla musica per i ragazzi e le ragazze, sull'inclusione. Noi non abbiamo selezionato, tutti quelli che hanno voluto venire sono venuti, più di 70 orchestre, migliaia di ragazzi che hanno avuto l'opportunità, grazie a Eufonica, alla regione Emilia-Romagna, l'unica regione in Italia che ha una legge sulla musica specifica, dobbiamo ricordarcelo questo. E perciò credo che il lavoro sia stato fatto nel dare un'opportunità ai ragazzi. Bene, veramente grazie. Quindi Eufonica 2025 in crescita? Beh, non dipende da me. Io diciamo che ho messo a disposizione il fatto dell'associazione Assonanza, che è l'associazione regionale della scuola di musica, io sono presidente. Ho messo a disposizione l'IDSM, che è l'associazione italiana della scuola di musica, sono anche presidente lì. Perché? Perché è un grosso network. Noi in Emilia-Romagna abbiamo più di 90 scuole associate, in Italia più di 250. Perciò siamo a disposizione dell'istituzione, con l'istituzione e non contro l'istituzione, qualunque esse siano. Perché il punto fondamentale del nostro lavoro è la musica con i ragazzi. Assolutamente, grazie per il lavoro che fai quotidianamente, perché questo deve crescere il percorso musicale all'interno delle scuole e non... Assolutamente, e con il lavoro di persone come te siamo in crescita. Grazie. Grazie, grazie a tutti voi. Bene, grazie a tutti. Da Eufonica 2024 è tutto per ora, perché questa per è la ciao mascotte, questa è la prima puntata dove noi raccontiamo quello che è successo nel nostro laboratorio radio. Nella prossima puntata avremo tutti i nostri inviati, compreso la mascotte, che hanno fatto interviste, sketch. A Feel Good. Quindi vi lasciamo con una prima intervista. Non voglio fare i compiti. Mascotte non c'entrano niente i tuoi compiti adesso. Comunque, beh, è eufonica, i compiti si devono fare un po', sennò cosa fai? Non fai i compiti per tutta la settimana? Sì. Non si può. Comunque, Mascotte, mi stai distraendo. I feel good. La smetta. I feel good. Va bene. Vi lasciamo quindi con il nostro primo inviato, vero? Buon cuore, bocconcino di... E ci risentiamo la settimana prossima, ciao Mascotte! Addio mon cuore, sì, vabbè. Au revoir! Ragazzi, chi siete voi? Chi siete? Ma tutti batteristi? Incredibili! Ciao, bella, da quant'è che percussionisti, scusa, sono due cose diverse, però sì. Tu sei percussionista, tutti percussionisti, sì. Allora ognuno fa, ma il percussionista suona tanti strumenti, giusto? Sì. Qual è, adesso chiedo a ognuno qual è lo strumento preferito da ciascuno, ok? Cominciamo. La batteria. E la gran cassa. La gran cassa. Vibrafono. Ok. Vibrafono. Olè, due vibrafoni. Batteria. Cosa batteria? Siamo due batterie e due vibrafoni, eh? Vediamo. Batteria. Tre batterie e due vibrafoni. Batteria. Ah, quattro batterie e due vibrafoni. Hanno vinto le batterie.